I wanna hold you so much. At last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Yes, I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in. E la scuola, o meglio i lavoratori e le lavoratrici della scuola, in questi ultimi giorni sono stati molto sulle testate dei giornali per l'affair 150 euro, penso si possa sintetizzare in questo modo. Stiamo parlando in realtà di scatti di stipendio, nel senso che nella scuola, come in tutta la pubblica amministrazione, sono stati bloccati gli scatti d'anzianità, e questo dal, correggetemi se sbaglio, dal 2008, insomma un intervento di Tremonti, quindi dell'ultimo governo Berlusconi. E poi c'è anche da tener conto che nella scuola il contratto non è stato rinnovato dal 2009, quindi è ancora in vigore il contratto 2007-2009, quindi diciamo che c'è non ci sono più stati aumenti di stipendio quindi dal 2008, perché manca sia il meccanismo dell'automatismo degli scatti d'anzianità che il rinnovo del contratto. Questo fino allo scorso anno, cioè al 2013. Quando c'è stato un accordo tra governo sostanzialmente e 4 dei 5 sindacati rappresentativi della scuola, firmato appunto da CISL, UIL, Gilda e Snalza e non dalla CGIL, che stabiliva questa cosa, cioè dal fondo d'istituto, e cioè dai soldi, diciamo, di tutte le attività extra, quindi possiamo anche chiamarlo straordinario per farci capire, che ogni anno vengono assegnati ai singoli istituti, e da questa somma veniva pescata una quota per pagare gli scatti di anzianità degli ultimi anni dei docenti. Questo accordo è stato un accordo molto discusso, anche piuttosto, come dire, discutibile, perché gli scatti d'anzianità venivano pagati non con risorse che lo Stato, il governo trovava da qualche altra parte o anche all'interno della scuola, ma dagli stessi soldi dei docenti e dei lavoratori della scuola. Quindi diciamo la grande truffa era questa. Questo accordo è una grande truffa. Sì, diciamo, forse è importante chiarire, riaffrontando questo tema che è stato sulle prime pagine dei giornali nei giorni scorsi, ma che ha avuto anche oggi ulteriori sviluppi, è importante chiarire che la scelta dell'accordo, la ratio, diciamo così, dell'accordo è stata in un certo senso quella di pagare di meno certe attività che vengono definite attività aggiuntive, come per esempio i corsi di recupero a fine anno o nel corso dell'anno, e di devolvere una quota di quel fondo, il FIS, destinato a queste attività, agli scatti di anzianità per tutti gli insegnanti, quindi. Certo, quelli che avevano lo scatto negli anni 2011-2012 e adesso anche 2013. Dunque, peraltro questi scatti per gli insegnanti sono un po' diversi rispetto al pubblico impiego, perché sono i primi 9 anni, poi 6 anni. Sì, all'8° anno da quando entri in servizio, poi al 15° e poi al 21° e poi basta. E quindi, diciamo, bloccare questi scatti significa anche bloccarli per più tempo rispetto al restante pubblico impiego. Dunque questi 4 sindacati hanno pensato bene di ridare il mal tolto ai docenti, però pescando dallo stesso tesoretto, e quindi la conseguenza è stata che ogni scuola si è, per l'anno scorso almeno, ha visto arrivare meno soldi rispetto a quelli degli anni precedenti e rispetto certamente a tutte le attività che ogni anno propone ed è contenuta nell'offerta formativa di ciascun istituto, che anzi ogni volta a mio avviso si arricchisce, no? E con questi soldi in meno ha dovuto, come dire, pagare le stesse o anche più attività dei docenti, quindi di fatto molti di questi pagamenti sono forfettari. Pensiamo anche all'attività di coordinamento che fanno i docenti per le classi, e quindi oltre alle attività anche di recupero e potenziamento degli studenti, per parlare di quelle principali. E questa quota è andata a diverse migliaia di insegnanti, non a tutti, ma a quelli che in quell'anno, il 2012 e anche il 2013, avevano lo scatto. E, se non che, come abbiamo detto la scorsa settimana, il governo, con questa farsa tra la ministra Garrozza, Saccomanni e anche Letta, e con l'intervento poi di Renzi, e diciamo, si è accorta che ha comunicato che questi soldi devono essere restituiti a quelli, ai docenti, diverse migliaia, c'è chi parla di 40.000 docenti, e che nel 2013 avevano ricevuto lo scatto, preso dalle loro tasche comunque, e adesso a gennaio, col cedolino di gennaio, si ritrovava una sorpresa di dover restituire a rate, quindi 150 euro a rate in media, e 4 mesi, 6 mesi, anche 10 mesi di scatto, come dire, consegnato, acquisito. La novità era che è bastato un tweet di Renzi per far tornare indietro il governo, un rimpallo di responsabilità tra Carrozza e gli altri ministri. E la novità di oggi, anzi la Carrozza, prima di arrivare alle novità di oggi, che insomma ha parlato abbastanza a lungo di questo argomento, ospite di Fabio Fazio su Rai 3, l'ha trattato in una maniera che io ho trovato singolare, perché parlava del fatto che c'era questa emergenza che loro erano riusciti a bloccare. Cioè, come se fosse caduto dal cielo, cioè nel senso, sì, come il se il terremoto che succhia 150 euro al mese dalle buste paga dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, perché poi si tratta non solo di insegnanti, ma insomma anche di personale ATA, e così come un'emergenza che loro con bravura e attenzione sono riusciti a stoppare. E la Carrozza, poi Fazio le ha chiesto, ma insomma anche per il personale non docente c'è lo stesso problema, le ha detto, io le ho detto che il problema è risolto, ha chiuso così l'argomento, se le ho detto il problema è risolto, e invece pare di no. Se non che stamattina leggiamo su alcuni giornali che non è per niente risolto, nel senso che comunicano che non chiederanno indietro i soldi già dati ai docenti, al personale ATA, però se non c'è una decisione in questo senso, lo scatto di anzianità non viene riconosciuto per chi è scattato nel 2013, nel 2014 tornerà allo stipendio precedente. La cosa mi pare veramente raccapricciante. Leggo virgolettato che nel prossimo Consiglio dei Ministri attendono una decisione nel prossimo Consiglio dei Ministri per vedere cosa succederà per il 2014. Quindi, per quanto riguarda il 2014, il pagamento degli scatti potrà essere assicurato a seguito delle decisioni che verranno assunte nel prossimo Consiglio per gli insegnanti che ne abbiano beneficiato nell'anno 2013. Dunque si ritorna a zero, non è risolto un bel nulla, non chiedono i soldi indietro, ma come tutti i docenti che hanno beneficiato di questo scatto legittimo, ripetiamo, nel 2013, e notano che il prossimo scatto sarà nel 2019, almeno per chi vi parla, e questa cosa viene cancellata, congelata, e quindi si ritorna, abbiamo scherzato e adesso si ritorna a prendere l'autostipendio del gradone precedente. Che dire? Non so se vogliamo commentare ancora, se non che non si capisce perché non siamo in piazza, ecco. Sì, al solito. Forse mi auguro che non siamo in piazza, perché ancora la notizia è di oggi, però obiettivamente di materia per scendere in piazza ce n'è parecchia, e niente, da dire c'è poco. Comunque nei fatti è possibile, attendiamo le decisioni, però la possibilità concreta appunto è che quello che era stato riconosciuto in virtù di un accordo che riguardava esclusivamente il comparto scuola con fondi che venivano tolti al comparto scuola e agli insegnanti stessi, quello che era stato riconosciuto non verrà più riconosciuto e quindi la busta paga diminuirà sostanzialmente per quegli insegnanti che avevano legittimamente maturato i requisiti. E con questo vi facciamo ascoltare un brano. Sciur padrun, salem padri vole, ieran li premi volti, ieran li premi volti. A scusa, sciur padrun, salem padri vole, ieran li premi volti, e saievo un puma fe. Sciur padrun, da li per i braghi bianchi, per li palanchi, per li palanchi. Sciur padrun, da li per i braghi bianchi, per li palanchi, panduma ca. E non va più a mesi, nemmeno a settimane, la va a poche ore, la va a poche ore, e non va più a mesi, nemmeno a settimane, la va a poche ore, e poi dopo andiamo a tra. Sciur padrun, dali per i braghi bianchi, per li palanchi, per li palanchi. Sciur padrun, dali per i braghi bianchi, per li palanchi, per un macca. E quando il treno c'è fly, Mondei alla stazione, con la cascetta in spalla, con la cascetta in spalla. E quando il treno c'è fly, Mondei alla stazione, con la cascetta in spalla, su e giù per i vagon. Sciur padrun, dali per i braghi bianchi, per li palanchi, per li palanchi. Sciur padrun, dali per i braghi bianchi, per li palanchi, per numa. E questi palanchi, insomma, anche quando arrivano ai lavoratori e alle lavoratrici della scuola sono ben pochi, insomma, perché bisogna anche ricordarsi questi 150 euro a chi vengano tolti, concessi, eccetera. A parte, si parla sempre di lordo, insomma, perché di fatto, come dire, tanto perché si abbia chiari parametri in cui ci muoviamo, un insegnante di scuola media superiore quando entra in ruolo guadagna tra i 1280 e 1320 euro il mese, con delle oscillazioni, insomma, che dipendono dalle tasse, vengano applicate in alcuni mesi, in altre no. E oggi, quindi, tutti quelli che sono stati assunti tra il 2008 e oggi guadagnano quella cifra, perché non ci sono stati, appunto, come dicevamo prima, nessun tipo di scatto. Tutti gli altri insegnanti guadagnano meno, nel senso, guadagnano meno quelle delle medie, quelle della primaria, quelle della materna. Tutti gli ATA, eccetto i DSGA, guadagnano meno, e quindi questo, insomma, è l'ordine in cui ci muoviamo, a parte ovviamente i dirigenti scolastici. E per capire la spettacolare progressione dello stipendio, chi invece ha 15-17 anni di anzianità, sempre parliamo del massimo dell'insegnante di scuola superiore, eccetera eccetera, arriva a 1500-1600 euro mensili netti. Sì, anche perché per arrivare al massimo della progressione di carriera, se mai ci rendessero questi scatti d'anzianità, bisogna arrivare al 35esimo anno di lavoro per avere il massimo, mentre la media europea è che tra il 15esimo e il 20esimo anno di lavoro si arriva al massimo dello stipendio e lo si porta fino alla pensione, quindi questo è più o meno. Leggevo su una pubblicazione di Cobas Scuola una tabella che, insomma, si avvaleva delle rivalutazioni Istat per fare un confronto sul potere d'acquisto di uno stipendio di un lavoratore o di una lavoratrice della scuola nel 1990 e nel 2013, sempre per rimanere sullo stesso esempio, cioè l'insegnante di scuola media superiore, nel 1990, appunto tenuto conto della revalutazione, guadagnava in media 8.000 euro in più l'anno. Quindi ha perso così tanto potere d'acquisto. La cosa interessante da notare è che tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola hanno perso proporzionalmente così tanto potere d'acquisto, con l'eccezione dei dirigenti scolastici, che oggi guadagnano in media 14.000 euro in più che nel 1990. Quindi poi, quando ci chiediamo come mai i dirigenti scolastici sono diventati quello che sono diventati, come dire, il piatto di lenticchie che gli hanno dato in cambio è abbastanza saporito. Piuttosto ricco, sì, è piuttosto ricco questo piatto di lenticchie. Tra l'altro, in questo lasso di tempo loro sono diventati effettivamente dirigenti, perché nel 90 non lo erano ancora, forse, quando è stato fatto quel calo. No, non lo erano, perché lo sono diventati, perché con l'autonomia. Lo sono diventati con l'autonomia, infatti. E comunque pensavo, no, è opportuno dirsele queste cose e dirle molto chiare, perché quando si parla, appunto, quando sale, diciamo, alla ribalta delle cronache dei giornali la questione stipendi, insegnanti e così via, si tira sempre in ballo il solito discorso: avete lo stipendio garantito, lavorate poco e così via. E si dice anche a margine, certo un insegnante guadagna poco, ma forse non poche persone sanno, tranne chi sta dentro la scuola, quanto poco guadagna il personale della scuola, perché le cifre sono queste e sono francamente stipendi con cui sostanzialmente non si vive oggi, per cui si tratta di dipendenti pubblici che peraltro sono vincolati a fare solo quel lavoro in buona sostanza, che hanno stipendi con cui non riescono a vivere, dovendo pagare un affitto e dovendo mantenere una famiglia, e questo è agghiacciante, insomma. Non la pensano tutti così, a quanto ci risulta, insomma. No, pochi la pensano così in realtà, in qualche caso con punte, diciamo, di personaggi che hanno particolari responsabilità e le cui dichiarazioni hanno un certo peso, ecco. Sì, perché noi possiamo leggere e magari i commenti, è pericoloso farlo, però i commenti agli articoli che parlano di queste cose, e la maggioranza degli articoli presenta degli insulti pesanti in generale nei confronti degli insegnanti, che non si accontentano, che si lamentano, eccetera eccetera, e che lavorano poco e così via. E quando questi stessi ragionamenti vengono fatti con dei toni leggermente diversi ma la sostanza identica da persone che decidono, e quindi dai nostri politici, possiamo anche fare un esempio, anzi, gli esempi sono molti, la cosa diventa preoccupante. Ci ricordiamo Monti, ma ci ricordiamo anche Profumo, per dire soltanto degli ultimi, per citare soltanto gli ultimi, che dietro l'aplomb, dietro parole forbite, hanno manifestato più volte il disprezzo della classe insegnanti. E l'ultima mi pare sia ancora una volta una deputata di Scelta Civica, Capua, che sostanzialmente ci comunica che oggigiorno, visti i tempi, è impossibile che un lavoratore, una lavoratrice lavorino soltanto 18 ore. Quindi è passato in vano un anno, sono passate in vano delle lotte e tutte queste spiegazioni che abbiamo dato anche noi sul fatto del cosa significa lavorare 18 ore frontali, il lavoro che ci portiamo dietro. Quindi, diciamo, fiato sprecato, perché ancora oggi ci sentiamo dire andate a lavorare, siete fannulloni, eccetera eccetera, la malattia la brunettite, come dire, colpisce molti, e quindi niente, siamo qui ancora a combattere contro queste persone. Per dirla tutta, non è neanche una deputata qualunque, nel senso che è vicepresidente della settima commissione, cioè la commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati, e si chiama appunto Ilaria Di Capua, per dire appunto precisamente poi da chi vengano queste parole. Di lavoro, anzi, la sua formazione è veterinaria, nel suo curriculum si dice dirigente sanitario, il che farebbe pensare a una dipendente pubblica, però poi in realtà andando a vedere sembra che sia una docente universitaria. Sì. Si è distinta dal punto di vista scientifico come ricercatrice sull'influenza aviaria, cioè una delle più grandi bufale del decennio, e che però ha portato molti soldi insomma nelle tasche dell'azienda di Dick Cheney, e, insomma, quindi una che con il supporto evidentemente con il supporto signora. Della signora che però insomma è semplicemente l'ultima di una lunga pletora di detrattori del pubblico impiego, poi alla fine, perché io credo che quello che poi c'è da dirsi alla fine è che anche tutti cioè, colpisce sempre molto anche me quando c'è un articolo che riguarda il personale della scuola, e siccome sulle testate online dei giornali spesso è possibile commentare, i commenti sotto sono una sequela infinita di insulti, come si diceva poc'anzi, agli insegnanti, a chi lavora in segreteria, ai bidelli. Ne ho letto una la scorsa settimana e se la prendevano tutti con i bidelli, dicendo che in fin dei conti i bidelli non hanno mai lavorato in vita loro, quindi non si capisce perché vogliano i soldi, insomma. Ora, tutto ciò, ora è chiaro che poi si deve andare sul meccanismo di internet, l'anonimato che questo prevede, eccetera, eccetera, eccetera. Ma di fatto poi come causa di tutta questa acredine, credo che si possa dire che c'è la campagna che è stata fatta per anni e anni contro il pubblico in generale, in Italia, tutto quello che è pubblico, quindi dicendo che la scuola fa schifo, che la sanità fa schifo, che bisogna passare ai privati, eccetera eccetera, evidentemente insomma un progetto mediatico con delle finalità precise, insomma portato avanti nel ventennio berlusconiano, purtroppo con partecipazioni importanti da parte anche di chi avrebbe dovuto fare opposizione, insomma non è che questo è un discorso ha portato avanti esclusivamente il centrodestra, anzi, e insomma ha la sua punta di diamante, o forse noi siccome lavoriamo a scuola la sentiamo di più, nell'attacchi contro chi lavora a scuola, insomma questo è proprio poi appunto sentiamo la ministra che dice dobbiamo rendere dignità al lavoro, alla scuola e al lavoro dell'insegnante, ma smettete di sputarci in faccia, intanto forse già potrebbe già qualcosa. Beh, in realtà è l'altra faccia della stessa medaglia, perché poi c'è pure chi dice la scuola è il fondamento, no, del nostro Stato, la Costituzione garantisce, no, la libertà, l'insegnamento, i docenti sono i nostri grandi, la nostra difesa, no? la nostra risorsa, eccetera, eccetera. Quindi c'è l'altra faccia, ma la medaglia è la stessa. Se lanci la moneta, una volta ti esce chi ti sputa, dall'altra parte chi ti esalta e ti rappresenta come, no, il salvatore o la salvatrice della patria, il futuro, la speranza, salvo che poi facciano le stesse cose. Allora la domanda è: ma sono ignoranti, pensano che noi non capiamo nulla o sono incompetenti? Questa è una domandona, però forse anche inutile, cioè nel senso. Sì, è una domanda anche inutile, sì. Anche perché forse veramente un po' di dietrologia anche in questo non guasta, perché sembra esserci un disegno complessivo a cui si faceva cenno anche prima, globalmente di squalifica del pubblico a vantaggio di interessi privati, di consorterie di varia natura. Questo è tanto vero nella scuola quanto è vero nella sanità, che sono i grandi ambiti in cui c'è stata la grande precarizzazione poi, certo, del lavoro, anche del lavoro qualificato. Sono ambiti nodali evidentemente, ma è quello il messaggio che si vuole mandare. Io credo né per ignoranza né per incompetenza né per leggerezza è nel pubblico non c'è più risorsa, non c'è più capacità, l'unica risorsa è rivolgersi al privato con tutta una serie di evidentemente con la crescita di tutta una serie di soggetti, insomma. D'altra parte anche la ministra nell'intervista a Fazio non ha mancato di sottolineare, certo, come sia assolutamente necessaria in qualche modo un'apertura, verrebbe da dire ulteriore, a quella, alla scuola privata, all'ingresso del privato nella scuola, sì, anche sì, in varie forme, insomma. Beh, ormai ci sono molti documenti che contengono questo, queste non sono più dichiarazioni, diciamo, sono degli intenti molto fondati, e immagino la scuola riparte, tutti questi nomi poi altisonanti, no? La scuola riparte, il decreto del fare, eccetera, e dove si dice spingiamo perché dall'esterno non è una contaminazione della scuola, è proprio, come dire, facciamo mangiare anche lì in alcuni settori che prima sembravano, no, intoccabili, e adesso invece non solo devono rappresentare il taglio, no? L'obiettivo del taglio, dove tagliare, ma anche magari agevolare e far fare i soliti affari ai soliti soggetti, insomma, perché anche nel decreto del fare, lo abbiamo letto anche abbastanza attentamente, quello che il progetto che la stessa ministra ha sbandierato l'altra sera da Fazio, cioè quello per il progetto delle aree a rischio dispersione, sostanzialmente prevede l'ingresso di soggetti privati che andrebbero a farsi carico delle attività pomeridiane, perché questo, in sintesi, se non ricordo male, è la grande strategia che poi è stata elaborata, ripeto, sto banalizzando, però il coinvolgimento di soggetti privati che, senza aggravio di spese per lo Stato, e quindi mi pare che dietro si possa vedere in controluce un soggetto confessionale o comunque un soggetto che ha altre motivazioni, è esplicitamente, diciamo, menzionato nel decreto del fare proprio nei progetti per le aree a rischio. Sì, facciamo sempre riferimento a questa intervista che ha rilasciato in televisione La Carrozza, perché è un po', come dire, la sintesi dell'atteggiamento governativo, insomma, sulla scuola degli ultimi tempi, e questa ministra rappresenta bene quello che si diceva poco fa, cioè che non si capisce se è incompetenza, cretineria da benaggine o una grandissima capacità di recitazione con dietro dei processi invece economico-politici molto precisi, perché questa ministra sembra veramente sempre cascar dal pero, dice di sì a tutto. Per esempio, appunto, si parlava di dispersione scolastica, è un problema molto grave, l'Italia è il secondo paese europeo per alto numero di dispersione scolastica. Per dispersione scolastica si intende quando un ragazzo o una ragazza lascia la scuola prima di aver compiuto l'età dell'obbligo, e l'età dell'obbligo che in Italia è anche molto bassa rispetto alla media europea, perché è 15 anni, sì. E appunto si è investito 3 lire per darla a dei privati sostanzialmente, e lì appunto la ministra ha detto che non ci dorme la notte, ma che ha detto proprio così, insomma, che non ci dorme la notte, ma che loro hanno fatto addirittura un decreto legge che parla di questo, pensa quanto sono presenti, insomma. E poi ha cominciato a sproloquiare usando tutta una terminologia che notavamo poco inerente alla scuola, dicendo che l'importante è che la scuola persegua il successo dello studente, altre amenità di questo. Sì, io adesso sinceramente gli snodi proprio nel dettaglio del discorso della ministra non li ricordo, però quello che mi ha colpito molto, a parte altri elementi, insomma, è questo ritornare in una donna che, perdonatemi, ma ha una povertà di lessico agghiacciante, perché in una stessa frase ripete 1000 volte la stessa parola e va bene, comunque fa spesso ricorso, per quanto riguarda la scuola, per quanto attiene a problemi della scuola, a un lessico che a me è sembrato personalmente proprio da Saranno Famosi, perché non ha detto neanche le cose più banali, cioè che la scuola deve garantire sostanzialmente la formazione degli studenti come persona consapevole, che è quello che tutti quanti ci diciamo e sentiamo dire, ma ha detto che la scuola deve garantire il successo dello studente, che la scuola deve tutelare il talento dello studente, e questo sinceramente da parte della ministra della pubblica istruzione, dell'istruzione pubblica, mi sembra una riduzione di scenario proprio allucinante. E poi ha detto francamente molte altre cose bizzarre oltre a quelle che abbiamo già citato, di ulteriore apertura alle scuole private e così via dicendo. Ha raccontato anche degli aneddoti imbarazzanti, ad esempio il fatto che lei, che è una donna, diciamo, non so dire quanti anni abbia, però avrà una poco meno di 50 anni. Si è resa conto nel momento in cui i suoi figli sono andati a scuola e lei diciamo ha quando sono andati al liceo, quindi ieri l'altro sì, cioè praticamente non so, non ho idea, non conosco i dati anagrafici dei figli della ministra, però comunque grosso modo si è resa conto che lei ha ritenuto opportuno dotarli di un'enciclopedia e ha comprato un'enciclopedia cartacea, e si è resa conto solo in quella circostanza, una donna insomma che mi pare di capire per esperienza professionale piuttosto addentro alla contemporaneità, comunque si è resa conto che era inutile l'enciclopedia cartacea, che loro avevano altri sistemi per arrivare alle informazioni e così via dicendo, insomma. Quindi francamente non so come si fosse preparata la ministra per questa intervista, ma ci verrebbe da dire ma non ci prendere in giro, insomma, perché poi il succo di quei discorsi di una donna sempre sorridente, sempre appunto caduta dal pero, sembra essere una colossale presa in giro ai danni non tanto e solo dei lavoratori della scuola, ma anche di chi a scuola ci va, degli studenti. Sì, e comunque insomma, se vuol rendere dignità, lei usa questo termine, io non lo userei, però non importa, a chi lavora nella scuola, sia insegnando che facendo qualcos'altro, c'è un primo passo molto semplice: dateci i soldi. Dacci i soldi. Noi vogliamo quelli. E per chi non ha avuto un'assunzione, anche un'assunzione, insomma, perché poi si è parlato sempre in quella intervista molto di precariato. Molto e confusamente. Molto, no? Confusamente, sia da parte di chi intervistava che da parte di chi era intervistata. Rispondo. Insomma, era abbastanza confuso, perché si confondeva l'assunzione con l'abilitazione, per esempio. Sì, e peraltro insomma sembrava che i precari fossero in attesa di un'abilitazione, questo è quello che veramente en passant, lì non si capiva proprio se per ignoranza da parte di entrambi gli interlocutori o se per una cattiva fede da parte se non altro della ministra, appunto sembrava che chi sta in graduatoria da precario abilitato, evidentemente perché non puoi accedere in graduatoria se non sei abilitato, avesse in realtà necessità di essere abilitato. Sì, la ministra ha assicurato che verranno assunte 26.000 insegnanti di sostegno, anzi che già le ha detto il ministro, e non ho capito se con questo il ministro parlava di se stessa o di Saccomanni, comunque ha detto il ministro ha già firmato, vediamo se è vera o se è un'altra panzana come ci hanno come abituato. Quella dei 150 euro. Esatto, comunque ha detto 26.000 insegnanti di sostegno. Meglio di nulla, però insomma aspettiamo di vedere. Always. Sì, a margine di queste nostre considerazioni veniva in mente no, il mio esordio da precario nelle scuole della provincia di Varese e lo stipendio che con molta fatica e anche con molto ritardo, a volte anche di 3 mesi, percepivo. In realtà parliamo prima del 2001, quindi eravamo ancora prima dell'euro, era intorno ai 2 milioni di lire e mi permetteva di pagare l'affitto di un appartamento e più o meno mangiare, vestire, ogni tanto fare una pizza con i colleghi, magari anche loro che venivano dall'Italia meridionale, visto che si creavano quasi, no? Come i film di alcuni decenni fa, dei gruppi, però sostanzialmente non, una volta che arrivava, ripeto, non dava grosse preoccupazioni. Oggi, ci ripetiamo, se non è affiancato da un altro stipendio in una famiglia non può reggere. Quindi sostanzialmente l'insegnante potrebbe essere anche un lavoro, come dire, che può permettersi soltanto chi ha già una casa di proprietà o pagata da qualcun altro, o non ha figli o non ha un altro stipendio. È una cosa preoccupante e infatti leggevo che il potere d'acquisto dello stipendio di oggi è un potere d'acquisto che risale, cioè che è paragonabile a quello dei 15 anni fa. Sì, peraltro insomma una cosa generalizzata, direi, cioè nel senso che noi ovviamente parliamo degli stipendi della scuola, ma non è che negli altri settori questo sia diverso, nel senso sappiamo benissimo che il lavoro salariato in Italia ha perso enormemente potere d'acquisto e in tutti i settori, direi, nel pubblico in alcune maniere, sotto i privati in altre maniere, ma evidentemente c'è una discrasia talmente marcata tra chi lavora e chi governa questo paese. Che chi governa non si rende conto che togliere così d'amblè 150 euro da una busta paga è una cosa infattibile. Sì, sì. Non dimentichiamo poi che i precari sono in una situazione ancora peggiore e abbiamo parlato, no? Si fanno i sorteggi, le riffe a scuola per vedere quali e quanto pagare i precari. Sì, e non dimentichiamo anche, cosa che abbiamo ricordato più volte nelle scorse puntate a proposito dei precari, che i precari prima potevano monetizzare in qualche modo le ferie non godute, invece adesso sono costretti a goderle nei periodi di sospensione dell'attività didattica, a differenza di chi è di ruolo, e quindi nei fatti hanno visto una decurtazione ulteriore delle loro buste paga o comunque dello stipendio complessivo dell'anno di lavoro. Sì, anno di lavoro che appunto per un precario, una precaria dura 10 mesi, perché vengono licenziati quasi tutti il 30 giugno. Quasi tutti oramai il 30 giugno. E riassunti a settembre non si sa mai quando, perché non si sa mai quando queste convocazioni vengono fatte, a volte si perde anche un mese di lavoro a settembre. Risparmio. Chi non riesce a avere l'incarico per i 10 mesi e fa le supplenze brevi viene licenziato anche per le vacanze di Natale, sì, sì, per le vacanze di Pasqua, rimane solo le domeniche vengono pagati, hanno 6 giorni di malattia, 6 pagati, e poi gli altri non sono più pagati. Quindi insomma, quando parliamo di chi lavora di ruolo nella scuola superiore, parliamo, ripeto, del gruppo che è trattato meglio tra i lavoratori e le lavoratrici della scuola, e quando parliamo di scuola parliamo di uno dei tanti settori del pubblico, insomma non è che si tratta di difendere una lobby, insomma, si tratta di una situazione di massa, insomma. Sì, di una situazione di massa di persone che comunque, stanti le condizioni generali del lavoro in Italia, vengono viste in una guerra tra poveri come privilegiate nei fatti, perché possono ammalarsi, e questi sono i privilegi residui dello stato del lavoro. Oh, chiudiamo forse col dire che anche se sì, molti docenti e molte docenti in realtà non immaginano minimamente come è composta la loro busta paga, e dunque quando è scoppiato una settimana fa, 10 giorni fa, questa questione, o anche soltanto per chi distrattamente ha letto la notizia dai titoli, la gente ignorava che alcuni erano scattati, che alcuni avevano ricevuto il compenso debito, e altri ignorano anche quando scattano. Cioè c'è anche una inconsapevolezza da parte del corpo docenti che è a livelli clamorosi. Sì, infatti si diceva prima, ma si è esordito, no? Ma perché non siamo in piazza? E probabilmente non siamo in piazza perché molti dei nostri colleghi queste cose non le sanno, insomma, e quindi se non sai che sei scattato, manco ti accorgi forse se ti tolgono 150 certo. euro al mese dalla busta paga. Sì, perché una cosa interessante, forse se fossi una sociologa, ma che invece mi fa semplicemente mi irrita o mi fa arrabbiare, insomma, a seconda delle giornate, è che a questa campagna di demolizione del pubblico, di denigrazione dei lavoratori e delle lavoratrici, ha corrisposto dentro la scuola, per la maggior parte dei docenti, una rincorsa a essere come ci vorrebbero, non so come... Una rincorsa a sentirsi già noi personalmente, ciascun insegnante, come ci vorrebbero, e a dire che gli altri dovrebbero essere come li vorrebbero. Adesso, a parte gli scherzi, se vogliamo essere benevoli, oggi mi sento così nei confronti della classe insegnante, ha corrisposto un enorme senso di colpa, una colpevolizzazione senza fine, e quindi un lavorare sempre all'inseguimento di una specie di obiettivo che qualcuno ti sventola davanti e poi ti toglie, non lo so. Comunque, invece, a proposito di precari e precarie, a questo punto diamo anche l'annuncio del fatto che domenica prossima c'è l'Assemblea Nazionale Precari della Scuola qui a Roma. Questa assemblea si terrà presso l'associazione Il Cielo Sopra l'Esquilino in via Galilei, quindi qui insomma all'Esquilino, dalle 10 del mattino. Si parlerà del pronunciamento, diciamo un punto forte di questa assemblea sarà il pronunciamento dell'Unione Europea sulle assunzioni dei privati, insomma, forse ne abbiamo dato notizie anche da questi microfoni, insomma, il fatto che da un ricorso presentato, insomma, da precari della scuola italiana, l'Unione Europea ha appunto stabilito che l'Italia non rispetta le norme che l'Unione si è data in materia di precariato dei dipendenti pubblici, e quindi su questo punto il coordinamento precari prevede mobilitazioni e azioni per ottemperare, perché il governo ottemperi, insomma, quanto gli viene richiesto. Poi si pensa di parlare dei provvedimenti ultimi e di quelli annunciati dal Ministero, in particolare su provvedimenti che riguardano il reclutamento, la sperimentazione e la riduzione del ciclo di studi superiori a 4 anni, con conseguente taglio di posti di lavoro, detrazione degli scatti d'anzianità e soppressione del pagamento delle ferie, dimensionamento ulteriore delle strutture scolastiche, mancata risoluzione della questione quota 96 e condizioni per il rinnovo del contratto che è stato annunciato quest'anno, che quest'anno sarebbe avvenuto, insomma, il rinnovo del contratto. Speriamo di no. Sì, anche io lo temo molto. Si parlerà in questa assemblea dei precari e delle precarie anche di Invalsi, si parlerà dei BES e del tentativo di medicalizzazione della disabilità, strategie e strumenti di unificazione e convergenza delle lotte all'interno del mondo della scuola e all'esterno. Magari la prossima volta sentiremo appunto qualcuno che ci potrà dar conto di questa assemblea, appunto, vi ripeto, nazionale dei precari, che si terrà domenica prossima a Roma. e chiudiamo questa trasmissione di, dell'Ora di Buco con un'ultima notizia che prendiamo dai giornali di ieri, in particolar modo dal, dal Corriere, che parla insomma di quanto succede in altre scuole europee, e cioè del fatto che in Austria, per esempio, o anche a Francoforte, si, si è istituito un'ora di religione islamica per ovviamente studenti e studentesse che vogliono frequentare questo corso. Si è parlato molto appunto di questo progetto pilota dell'Assia, uno dei land tedeschi, perché ne ha parlato il New York Times, ma in realtà, dice questo articolo del Corriere, in Austria questo è già una realtà da tempo. Si parla appunto del del fatto che si può che l'istituto, cioè la, le singole scuole conferiscono, cioè l'istituto c'è un scusate, mi sono confusa, l'IRPA è un istituto che dà un diploma apposito per poter poi insegnare Islam nelle scuole, i docenti vengono pagati dal Ministero della Pubblica Istruzione e sono corsi di teologia islamica ma anche di pedagogia didattica e legge. In questo articolo del Corriere si parla di questo e poi ci si chiede qual è la situazione italiana e si va a prendere uno studioso di Islam per avere una, un'ipotesi, però un istituto, uno studioso di Islam dell'Università Cattolica di Milano, come dire, un personaggio neutro, un a caso, Paolo Branca, il quale dice che insomma lui non sarebbe d'accordo, che sarebbe meglio trasformare l'ora di religione in una lezione sulle religioni. In sintonia con una popolazione scolastica che da tempo non è più omogenea, molti musulmani, ancora di più gli ortodossi. La realtà, dice questo Branca, si sta muovendo da sola in questa direzione. Il 15% dei genitori islamici a Milano non chiede l'esonero per i figli e nella pratica molti insegnanti armati di buona volontà tentano di valorizzare le diversità che incontrano in classe. Questi insegnanti di buona volontà sono quelli di religione, sono gli insegnanti di religione cattolica. L'ora di religione nel nostro paese però non se ne parla, e poi va avanti l'articolo. E dal lato possiamo dire un aspetto positivo, sembra quindi l'equiparazione, no, delle varie religioni, l'Islam come il cattolicesimo o in Germania anche il protestantesimo. Aspetto che, come dire, mi lascia molto perplesso è che magari possiamo raddoppiare anche l'ora di religione, come ho visto in qualche altra, in qualche scuola in Italia, cioè ci sono delle curvature sull'ora di religione che diventano due a settimana. E c'è proprio bisogno di fare la scuola l'ora di religione? Sì, che sia essa islamica, cattolica, ora noi o di no. Religioni? Nel senso, io religioni come sì, e anche perché ricordiamo qua si parla di insegnare la dottrina religiosa, sì, no, non è che è un fatto che... culturale. Sì, no, è quello che sconcerta, che si parla di insegnare la dottrina religiosa e questo è un pochino stupefacente anche nel momento in cui c'è qualcuno che sostiene che alla fine ci sono insegnanti di buona volontà di religione cattolica che sono in grado di insegnare la dottrina della religione islamica, cioè siamo alla follia, non lo so, Ma io avevo colto nella lettura di questi articoli anche in alcuni commenti, ovviamente sempre di persone diciamo molto addentro ma tutt'altro che neutre, che salutavano, diciamo, che erano in questi commenti erano contenuti una valutazione di questo tipo: beh, va bene anche parlare dell'Islam perché comunque così non si formano terroristi, diciamo, le parole non erano esattamente queste, però diciamo il succo lo era. Sì, dice, l'ipotesi è quello di non spingere all'emarginazione e quindi alla radicalizzazione i giovani musulmani. Appunto, una motivazione fortissima, mi pare, no? Sì, e che quindi diciamo, la nostra invito la ministra a informarsi, così magari può darci anche il suo commento, che immagino possa essere: ah, magari anche io avrei fatto quest'ora di religioni, così come lei, se no? Se ci fosse stata, lei avrebbe fatto il liceo di 4 anni, adesso magari, non so, tornerebbe indietro, diventerebbe uno dei suoi figli per fare l'ora di religione, le ore di religione, l'enciclopedia. Vabbè. E vabbè, in attesa che finalmente venga soppressa l'ora di qualunque religione, aspetta. L'ora di buco di questa settimana è finita, vi dà appuntamento a martedì prossimo e lascia i microfoni al martedì autogestito da femministe e lesbiche che oggi torna in onda.